Radio 24 Reportage. La nave dei bambini di Valentina Furlanetto. Puoi non interessarti alla guerra in Siria, al conflitto in Mali, alla situazione in Eritrea, ma la Siria, l'Eritrea e il Mali si interessano a te. Ti si materializzano davanti sulla banchina del porto commerciale di Augusta in Sicilia. Prendono corpo in un ragazzino di 13 anni eritreo che vaga solo da settimane per mare, o di una bambina di 2 anni siriana che nel viaggio ha perso i genitori. Le forze dell'ordine giovedì mattina al porto di Augusta in Sicilia si sono trovate davanti un barcone intero pieno di bambini. Su 488 sbarcati da 2 navi, 141 infatti erano minorenni. È la prima volta che in uno sbarco si registra un numero così elevato di minori, molti dei quali viaggiano non accompagnati. Ad accoglierli, oltre alle forze dell'ordine, alla protezione civile, anche la responsabile del Dipartimento Protezione Minori di Save the Children, Carlotta Bellini. 141 minori contati dall'ufficio immigrazione. In realtà poi noi di Save the Children abbiamo anche aiutato a identificare 35 minori non accompagnati, quindi che viaggiavano soli e sono egiziani. I bambini invece accompagnati sono siriani. Sono molto stanchi, alcuni di loro hanno viaggiato 15 giorni in mare e peraltro in condizioni pietose, alcuni hanno detto di aver bevuto anche l'acqua dal radiatore, sono visibilmente molto stanchi. Dove verranno accompagnati ora? Dovrebbero essere accompagnati a una delle strutture aperte proprio adesso per far fronte a questo flusso, e che dovrebbe essere quella di Caltagirone, ma non è ancora confermato. Perché sappiamo che Augusta, la scuola dove le aule sono state messe a disposizione dei ragazzini migranti, è già trabocca di persone. Sì, quella di Caltagirone è peggio, cioè sono una peggio dell'altra, quindi la situazione è veramente molto grave. Non sono strutture assolutamente adeguate. I bambini che abbiamo incontrato, ma anche abbiamo rifatto un giro un po' delle varie strutture in questi giorni, e ci hanno proprio detto, alcuni di loro non hanno ricevuto vestiti, altri dicono che non mangiano a sufficienza, cioè mangiano poco, il cibo è veramente in quantità ridotta, altri dicono che non avevano l'acqua per lavarsi per giorni. Qual è il loro progetto? Parlo ovviamente non dei bambini, ma dei ragazzini non accompagnati. Rimanere in Italia o andare in altri paesi? Dipende dalla nazionalità. Gli eritrei vogliono andarsene via e andare soprattutto verso la Svezia o la Germania, mentre i ragazzini egiziani, ma anche subsahariani, quindi vuol dire Mali, ma anche Ghana, molti vengono e vogliono rimanere. E loro quindi preferiscono rimanere in Italia. Ma qual è il destino di questi bambini una volta sbarcati in Italia? Una scuola elementare in via Dessier ad Augusta è diventata un rifugio d'emergenza. Lo stesso accade al Pala Ionio. 110 ragazzi, arrivati nelle settimane e nei mesi scorsi, sono invece ospitati nel centro Papa Francesco di Augusta. Il direttore è Daniele Carrozza. Siamo nati l'anno scorso nel mese di agosto con un'autorizzazione prefettizia, perché in pratica si era posto un problema l'anno scorso che minori e adulti erano tutti insieme tenuti, ricoverati nello stesso centro di accoglienza, con un problema di promiscuità serissimo. Tant'è che all'epoca vi furono dei problemi con dei ragazzini egiziani che protestarono vibratamente, perché subivano anche vessazioni da parte degli adulti loro connazionali. Quindi in quell'emergenza siamo nati noi con un'autorizzazione prefettizia. Accogliamo i minori che ci invia il Comune di Augusta, che ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile è responsabile per i minori stranieri o comunque per i minori non accompagnati. Quindi vi arrivano fondi dal Comune? Sì, che non arrivano praticamente, perché noi, per noi c'è questo problema incredibile che non riusciamo a comprendere il perché. Siccome sono minori e quindi, come dire, sono sotto l'egida, tra virgolette, dell'articolo 403 del Codice Civile, non dipendono dal Ministero degli Interni come tutti gli altri immigrati adulti, ma dipendono dal Ministero del Welfare, che ha un fondo speciale per i minori stranieri che prevede una retta di 20 euro pro die pro capite per ogni minore. Invece dei 35 dati dal Ministero dell'Interno per gli adulti. Esatto, perfetto, perfetto, perfetto. Lei comprende che è una cosa assurda, perché come funziona? Se c'è un minore accompagnato con la mamma o col papà o con lo zio, per quel minore accompagnato il Ministero dà una retta di 30 o 35, ora non mi ricordo bene. Se il minore invece non ha nessuno, per questo minore paga solo una retta di 20 euro. Eventualmente la differenza dovrebbero metterla o la regione o i comuni. Lei si figuri se un comune, che praticamente quasi comuni, tutti i comuni d'Italia sono in dissesto, se pensano di poter impinguare quella retta. Tra l'altro Augusta ha una situazione un po' difficile in questo momento. Perché Augusta ha una situazione assolutamente difficile, perché è un comune commissariato, gestito da tre prefetti, da una commissione prefettizia, perché l'anno scorso è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Quindi è un comune che fra l'altro economicamente è quasi in dissesto, per cui noi abbiamo recentemente avuto il pagamento della fattura di gennaio e siamo a maggio. Senta, di che nazionalità sono questi ragazzi? Mali, Gambia, Senegal, Nigeria e qualche ragazzo egiziano. E che fine faranno? Perché la soluzione dovrebbe essere transitoria. Certo, la mia è una struttura assolutamente transitoria. Lei consideri che questo qui dovrebbero stare i ragazzi non più di 48, massimo 72 ore. Invece io ragazzi sono qui da mesi, da 4 mesi e oltre, perché non si sono trovati posti nelle comunità, perché non si sono trovati posti nei centri strade per i richiedenti asilo. Ma è diversa la situazione in altre città. Liliana Pagano, responsabile e fondatrice della Casa Famiglia La Nuvola di Napoli. Con la fascia d'età 0-10 anni, il più grande ha 8 anni e poi il più piccolino ha 2 anni e mezzo. Sono passati 280 bambini da me in 18 anni. Quei comuni non hanno più soldi per il sociale, non investono più niente, quindi noi andiamo avanti con le nostre forze. Mio marito per fortuna è pensionato, mia figlia lavora e mio figlio lavora e mi dà una mano. Noi abbiamo 3 bambini di Acerra, non veniamo pagati. Abbiamo 2 bambini di Benevento, non veniamo pagati. Napoli non glielo dico proprio, perché Napoli non ha proprio soldi, quindi noi siamo proprio, ma io non ho il coraggio di mandare via questi bambini. Tante case famiglie hanno chiuso qua, hanno messo i bambini fuori dal comune e li hanno lasciati lì. Io ci sono stata troppo male per questa cosa, perché no, assolutamente no, preferisco andare avanti con l'elemosina, con gli aiuti che mi danno la mia famiglia, perché io sono una bella famiglia numerosa. Quando mi servono scarpe, mi servono vestiti, loro sono sempre a disposizione a comprare queste cose ai bambini. Risalendo la penisola si arriva a Milano. In stazione centrale si accalcano nuclei familiari siriani, persone della classe media che fuggono dalla guerra, non dalla povertà. Save the Children li accoglie al civico zero o spesso anche in stazione. Puoi non occuparti della Siria, ma è la Siria che ti si presenta davanti e talvolta, come racconta il mediatore culturale Majidi Karbai, ha il volto di una bimba di 5 anni. C'era questa... La storia che ci ha colpito è che si chiama Amal, ha 5 anni. Amal è di Homs, ha perso la mamma e i suoi 2 fratelli, fratellini piccoli, in seguito a un bombardamento dalla sua casa. È stato costretto a fuggire con il suo padre, hanno fatto il viaggio fino all'Egitto e poi dall'Egitto sono venuti in Italia, hanno fatto tipo 7 una settimana nel mare, poi una settimana lei non ha mangiato e dice il padre, quando appena abbiamo sbarcato, dice gli ha detto che guarda, adesso siamo in Italia, se non mi fai mangiare ti denuncio, altrimenti